Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ebbene, come avevo promesso la scorsa settimana, oggi parleremo di pizza. Perché parleremo di pizza? Durante la trasmissione della settimana, appunto la settimana scorsa, avevamo parlato del piatto che rappresenta l'italianità nel mondo, a seguito anche di quell'iniziativa dei ristoratori italiani nel mondo, e che avevano scelto come secondo anno il risotto alla milanese. Avevamo lanciato questo referendum: qual è il piatto che rappresenta? Ebbene, diciamo che buona parte aveva votato per la pizza, e avevo promesso che oggi si parlerà della pizza. Ebbene, allora cominciamo a parlare della pizza con un personaggio che creativo, un grande creativo conosciuto in tutto il mondo. Fra poco sarà conosciuto anche come produttore di vino, ma questo è un inciso. Tra l'altro è eccellente il suo rosso che sta per uscire, ma voglio chiedere a lui, che appunto ha così una certa esperienza di campagne in giro per il mondo, e quindi se la pizza può essere il testimone della cucina italiana. Buongiorno Oliviero Toscani. Buongiorno a tutti. Sei a cavallo, mi dicono. Sono a cavallo qui nel bosco in Toscana, una meraviglia, una giornata bellissima. Allora Oliviero, ma secondo te può essere il testimone alla pizza della cucina italiana? Guarda, io ti dico, la pizza bisognerebbe usarla, metterla sulla bandiera, tipo la bandiera giapponese. Invece il cerchio rosso non dovremmo mettere la pizza. No, ma adesso non è uno scherzo, non è una battuta, ma la pizza è il massimo della genialità. Quando mi domandano cos'è il pezzo di design più bello d'Italia, non da mangiare, proprio di design, dico sempre la pizza. È il massimo dell'intelligenza, dell'essenzialità, della semplicità, anche così si potrebbe dire. Sono proprio gli ingredienti primari del nostro paese, per di più anche al colore del nostro paese. È incredibile, ha tutte le componenti per arrivare quasi alla perfezione. Ma tra l'altro tu dicevi della bandiera, lo stato di Grenada nelle Grenadine ha nella bandiera la noce moscata, perché esatto, è il maggior produttore al mondo di noce moscata. Berlusconi lì ha perso il treno. Forza Italia deve mettere una pizza, cosa deve mettere la bandiera? No, sarebbe stato molto più forte. Beh, no? questo è un consiglio. Sempre in tempo, il prossimo forse Veltroni, quando cambierà, di quel marchio che hanno fatto, che sembra un po' una pizza andata male, avrebbe voluto mettere una pizza, no? Senti, lì, ci ha messo dentro l'origano, no, è un olivo, penso un origano, non so bene, non è chiaro. Avesse messo una pizza fatta dal migliore pizzaiolo d'Italia. Chi è il miglior pizzaiolo d'Italia? Beh, non si parla di Pierangelini, grande cuoco, ma secondo me il pizzaiolo è il più importante di tutti. Guarda, rimani in linea, perché ora lo chiediamo subito. Vabbè, numero verde 800 24 00 24, lo chiediamo a tutti i radioascoltatori di intervenire, chi è per loro il miglior pizzaiolo, ma lo chiedo ad Antonio Pace, che è in linea con noi, che è il presidente dell'associazione Pizza Verace, appunto di Napoli, ed è il proprietario di Ciro Santa Brigida. Buongiorno Pace. Buongiorno. Sentito cosa ha detto Toscani? Sì, ha detto, io sono d'accordo con quanto dice, perché effettivamente le esperienze che abbiamo in giro per il mondo ci dicono che la pizza ha un'attrattiva incredibile su tutti, insomma. È veramente un emblema, un simbolo. Senta Antonio, ma ogni anno c'è un campionato mondiale della pizza, se non erro. Beh, ogni anno c'è un campionato mondiale della pizza, ci stanno tanti concorsi, ma io, per rispondere a quello che ho sentito la sua domanda, dico, ci sa in questo momento il miglior pizzaiolo del mondo dove si trova, lavorando a casa sua? Probabilmente nessuno di noi lo sa. I campionati premiano sempre il migliore forse di quelli che partecipano. Però Antonio, diciamo che anche all'estero ci sono molti pizzaioli bravi che hanno cominciato. Sì, certo. Noi abbiamo fatto una grossa scuola in Giappone, per esempio. Abbiamo tanti giapponesi che seguono con grande attenzione il sistema della pizza napoletana, addirittura nel modo più esasperato addirittura. Va bene, rimanete con noi, sentiamo Cesare dalla provincia di Roma. Buongiorno Cesare. Buongiorno, signor Paolini, buongiorno. Mi dica. Io sono favorevolissimo ai kebab, ai fast food, ai McDonald's e alle pizzerie, che preferisco generalmente ai ristoranti. Primo, per l'igiene. Spesso i fast food sono molto più igienicamente raccomandabili dei ristoranti. Si mangia rapidamente, in genere i locali pure sono allegri e di buon gusto, i prezzi sono modici e non si perde tempo. Quindi quindi senz'altro io preferisco i fast food ai ristoranti. Bene, Cesare, guardi, sul fatto dell'igienicità io ho qualche dubbio, non sono completamente d'accordo con lei, anche se amo molto i cibi di strada, però insomma anche qui bisogna mettere un po' le mani avanti. Comunque ricordo, numero verde 800 24 0024, torno a Oliviero Toscani. Oliviero, ma come si potrebbe promuovere la cucina italiana attraverso la pizza nel mondo? Pizza è conosciuta in tutto il mondo, forse la cosa che conoscono di più di noi al mondo è la pizza. Io mi ricordo che vicino a Las Vegas c'è la Torre di Pizza, c'è questo ristorante sulla strada, si chiama la Torre di Pizza, si vede la Torre di Pisa e dietro con una grande aureola luminosa illuminata c'è una pizza con un grande tramonto. È una cosa bellissima, gli ho fatto una foto, ce l'ho, se volete la mando, è una roba bellissima. La Torre di Pizza, io abito in provincia di Pisa. E le volte che dico che abito in provincia di Pisa, tu mi dici, ah, dove è stata inventata la pizza? Cioè, pizza, Pisa, la vendono come pizza. A parte il fatto che gli americani credono, sono convinti... Di averla inventata loro, sì. Che la pizza, non l'hanno inventata loro, ma è una cosa americana. E in realtà c'è una verità, perché i nostri migranti all'inizio del secolo sono andati là e cominciavano a fare la pizza, sapevano far quello. E quindi... forse loro hanno portato avanti questo valore in un modo molto più profondo, in un certo senso, anche così romantico di come l'abbiamo fatta noi. Quindi non è che l'abbiano inventato loro, gli americani, chi sono gli americani? Questi erano gli italiani che hanno portato là la pizza, quindi è anche abbastanza vero, perché loro hanno capito prima di noi l'importanza della pizza. Mi spiace dirlo, ma è così. Beh, esiste una leggenda metropolitana che un professore della John Hopkins a Bologna, una quindicina di anni fa, durante un convegno, disse: How do you say pizza in Italian? Quindi questo significava appunto di rivendicare la paternità americana. Grazie Oliviero, ti lascio i tuoi cavalli, a presto. Oh, ciao, ciao. A presto. Sentiamo Alessandro da Napoli, buongiorno, Radio Ascoltatore. Buongiorno Paolini, innanzitutto complimenti per la trasmissione, la seguo quasi sempre, insomma, quando posso. Senta, io volevo segnalarle una specialità. Io dalla Toscana mi sono trasferito nella provincia di Napoli per lavoro quasi un anno fa e a Nola ho scoperto questa particolare pizza che loro chiamano tronchetto. Nella sua semplicità, secondo me, è una cosa molto molto buona, perché si tratta semplicemente di una pizza arrotolata con all'interno due tipi di formaggio, che viene poi condita in superficie con del prosciutto crudo, del parmigiano grattugiato, un filo di olio a crudo e un po' di rucola. Bene Alessandro, grazie, perché questa è una variazione, ce ne sono tante sulla pizza. Il gastronauta. Bene, pizza, sempre pizza, fortissimamente pizza. Ricordo il numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Sentiamo un radioascoltatore, Roberto dall'Aquila. Buongiorno Roberto. Buongiorno, niente, noi abbiamo una pizzeria. Sì. Abbiamo una pizzeria al taglio, facciamo lunga lievitazione, 48 ore, e abbiamo puntato, diciamo, la pizza su un prodotto di qualità. Si fa fatica a proporlo questo prodotto, perché molto spesso la pizza è considerata un ripiego. Io ho avuto la fortuna di far assaggiare la pizza a Fulvio Pirancellini. Sì. E mi ha detto che non ha mai assaggiato niente di simile. Io sono andato a trovarlo a San Vincenzo, che avevo letto il libro sul suo invito. E beh, insomma, dopo 7 anni ci ha ridato la carica per altri 7 anni. Ho capito. Benissimo, grazie Roberto dall'Aquila. Bene, io voglio tornare a Antonio Pace, appunto, che rappresenta la pizza verace. Volevo chiedergli questo. Pace, ma non pensa che la pizza in giro per il mondo sia così veramente un po' sputtanata, come ho detto l'altra trasmissione, nel senso che ci sono molte pizzerie, ovviamente, che fanno la pizza in maniera maldestra, la imitano, la contraffanno, specialmente all'estero. Non pensa che questo prodotto in questi anni abbia perso, diciamo, della sua autenticità e della sua anche bontà? Ma certamente la ragione per cui noi abbiamo creato quell'associazione Verace Pizza Napoletana nel lontano 84, 25 anni fa ormai, proprio per difendere questa posizione, perché purtroppo io quello che diceva Oliviero Toscani prima è piuttosto giusto. Noi noi per troppi anni, cioè fino al 1950 e oltre, abbiamo tenuto chiusi diciamo l'arco geografico della presenza della pizza alla sola città di Napoli. Nel frattempo è venuta fuori, sono venute fuori delle invenzioni che niente avevano a che fare con la pizza originaria. Ognuno si è inventata la sua e poi purtroppo si è pure convinto che è la migliore. E quindi diciamo falsari nel mondo ce ne stanno ormai troppe. La ragione che noi ci proponemmo dal primo giorno che siamo nati come associazione di diffondere il modo corretto di fare la pizza, dicendo, beh, visto che la devono fare, visto che la fanno tutti, facciamogliela fare bene. Ci guadagna Napoli, ci guadagna la pizza. Ma bisogna dire anche che qua ci sono delle pizzerie anche in Italia che presentano 30-35 tipologie di cose che alla fine non sono pizze, ma sono schiacciate con sopramesse così, che ne so, pera e gorgonzola, ci si mette un po' di tutto, mortadella, ormai cioè si trova. Io credo che così anche da parte vostra ci debba essere una maggior tutela, sempre più stretta. Comunque continueremo questo discorso. Sentiamo un radioascoltatore, Mauro da Roma. Buongiorno. Prego. Senta, no, io volevo semplicemente, non ho sentito le ultime fasi perché mi hanno messo in collegamento, volevo semplicemente dire, parlare della differenza tra la pizza a taglio, che a Roma è molto diffusa, e la pizza, quella invece da piatto, insomma, torta classica. Non so se si possono magari sul discorso della migliore pizza fare differenze, fare due categorie. Per esempio, a Roma c'è la pizza bassa, quella che rispetto a quella napoletana è un concetto diverso e non è effettivamente non è allo stesso livello di quella napoletana. Guardi, è una coincidenza, una grande coincidenza, perché noi abbiamo in collegamento da pochi secondi quello che è considerato il guru, me lo permetta, Gabriele Bonci, della pizza diciamo scuola romana, Mauro. Quindi guardi, facciamo parlare Gabriele Bonci per sentire se esistono due filoni di pizzerie oppure se la pizza è unica. Buongiorno Bonci. Buongiorno, buongiorno. Allora, sentito Bonci? Ho sentito benissimo. Allora, qui volevo dire una cosa. Pizza romana, guru di pizza romana, ma io intendo pizza romana come soltanto l'esclusiva della pizza a taglio, chiamata appunto la teglia romana. Per quanto riguarda la pizza tonda, io mi appoggio con tutto me stesso, che sono anche 140 kg di carne, addosso al signore di Napoli. Per me la pizza è quella, e poi con tutte le sue variazioni, perché ecco, dove andiamo, essendo l'Italia un posto dove la regione è il palato di chi l'abita, quindi volevo dire questo qua, ogni regione ha il suo palato per la pizza, come certo, per il pane, no? Quindi qui a Roma ci piace più croccante, fragrante che morbida, e allora facciamo una napoletana, quindi stesa a mano con tutte le attenzioni, ma teniamo un forno leggermente più basso in maniera che la pizza ci esce più croccante. Tutto qui, però io mi appoggio con un prodotto artigianale dove è la mano a stendere e non il mattarello. Senta Bonci, le faccio così una domanda abbastanza provocatoria, però per quello che sta succedendo in molte città sembra che vogliono fare sparire il fast food dai centri storici, quindi probabilmente anche la pizza a taglio. Lei cosa ne pensa? Io penso che sia un danno assurdo sia per la gastronomia nazionale nostra, perché il fast food in Italia è il motore dell'alimentazione, perché noi basta che pensiamo al polpo in cartoccio che troviamo a Genova, basta che pensiamo al Lampedotto, basta che pensiamo a Napoli, alla Mirsa, a Palermo. Quindi fare sparire il fast food al centro vuol dire togliere il Colosseo a Roma, la stessa cosa. Bene, grazie a Bonci, ringrazio anche Antonio Pace, a presto a tutte e due. Sentiamo Corrado dalla Brianza. Buongiorno Corrado. Buongiorno, grazie per avermi dato la possibilità di dare la mia. Io parlo da una regione, da un paese che la pizza è praticamente è stata soppiantata da tantissimi extracomunitari che lavorano in questo settore. Io sono e nasco cuoco nella mia attività, nella mia pizzeria qui in Brianza, e volevo dire anche la mia, perché ho trasformato la mia professione da cuoco in pizzaiolo proprio per amore della pizza, perché avendo visto lavorare i napoletani qui, ho avuto la fortuna di averne lavorare due, mi hanno fatto veramente cambiare opinione su quello che era la pizza, perché prima era la classica cracker con sopra del pomodoro e della mozzarella poco gradita, Oggi qui da me, dopo 5 anni, anch'io faccio parte dell'associazione Verace Pizza Napoletana, che prima parlava la signora Pace. Sto cominciando a raccogliere i miei risultati e sono felicissimo di questa cosa qua. Infatti io vorrei dire la mia, che tutti debbano guardare quello che è la pizza in versione italiana, non tanto quella straniera. Bene. Perché è un prodotto che dobbiamo innalzare e non soppiantare da tantissime persone che invece ne hanno fatto soltanto un uso commerciale. Grazie Corrado. Sentiamo Diego dalla provincia da Roma. Grazie a lei, Diego. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io volevo dire la mia. Secondo me c'è una grossa differenza tra la pizza romana e la pizza napoletana. Io sono fidanzato da più di 10 anni con una ragazza napoletana e ho smesso di mangiare la pizza a Roma, specialmente quella tonda, dove la differenza è notevole rispetto a quella classica napoletana. La pizza a taglia è rimasta, secondo me, ancora più buona quella romana, in quanto a Napoli non si usa, diciamo, avere delle pizzerie a taglio. Però ho notato che su Roma ormai molte pizzerie utilizzano stranieri per fare la pizza, e secondo me la vera tradizione deve rimanere e deve essere quella napoletana. Bene, grazie Diego, ma lei per amore mi sembra che abbia optato per Napoli, insomma, soprattutto. Bene, e ora sentiamo anche una voce di un grande ristoratore, un 3 stelle noto in tutto il mondo, che fa cucina del territorio, il suo ristorante. E allora lui voglio chiedere, ma ad Antonio Santini, ovviamente dal pescatore di Canneto sull'Oglio. Antonio, volevo chiederti, secondo te la pizza, tu che sei sempre anche in contatto con il mondo, la pizza può rappresentare la cucina italiana nel mondo? Buongiorno, sono Antonio Santini. Dunque, come è stato già detto, credo che è difficile prendere un piatto che possa rappresentare la nostra cultura, la nostra storia. Certamente la pizza è un elemento che ci rappresenta bene, ma non possiamo dare alla pizza tutto questo impegno, tutta questa responsabilità, come non lo possiamo dare a nessun dei nostri piatti italiani. Quindi tu dici che non esiste un piatto che rappresenti nella sua complessità e nella sua diversità la cucina italiana? No, sì, se dobbiamo per forza prendere un piatto lo possiamo cercare, ma credo che è meglio parlare di uno stile italiano piuttosto che di un piatto che rappresenta la cultura italiana. Ecco, possiamo riconoscere alla pizza, diciamo, il nome di piatto e invece che di qualche cos'altro? Cioè un piatto quindi di un qualcosa che viene anche cucinato. Certamente la pizza in genere è considerata un qualche cosa di rapido, di veloce, ma non bisogna dimenticare che dietro la pizza ci sta una cultura, ci sta una storia, ci sta una capacità di eseguirla. E qualche volta la vediamo distrutta da un'incapacità professionale, qualche altra volta la vediamo esaltata. Certamente non ha la complessità di altri piatti, ma credo che possiamo considerarlo una preparazione gastronomica. Da questo punto di vista credo che si possa dire. Ecco, tu anni fa sei stato fondatore con il grande Franco Colombani di un movimento per la difesa, appunto, della territorialità e dei piatti italiani, quando magari ancora nessuno se ne occupava di questo, e oggi se ne occupano in tanti. Sono passati tanti anni, forse, che se ce ne fossimo occupati prima probabilmente qualche disastro non sarebbe avvenuto. Volevo chiederti, in quel vostro progetto c'era anche la pizza? No, non c'era la pizza, perché dunque il progetto era Linee Italia in Cucina, era nato nel 1980 ed era stato fondato nella sede della Cucina Italiana, la rivista, allora di proprietà e diretta dalla signora Anna Gosetti della Salda. No, non era presente, perché probabilmente erano tutti ristoratori e in questi ristoranti non si preparava la pizza. Bene, grazie Antonio e buon lavoro. Sentiamo Fabio dalla provincia di Roma. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Dica. Senta, io sono consulente della Regione Lazio per l'artigianato e volevo intervenire perché ho sentito parlare di pizza all'estero e di italianità sulla pizza. Noi sollecitati dall'Associazione Pizzaioli d'Italia siamo stati già a Mosca al PIR, che è una grande fiera, e abbiamo presentato la pizza romana di qualità, tra l'altro che viene anche certificata nel suo processo dalla Camera di Commercio di Roma, e devo dirle che la risposta è stata eccezionale e convengo sulla necessità di presentare la pizza come un vero e proprio made in Italy nella cucina. Noi lo stiamo facendo e le risposte sono importanti. quindi benissimo, bene. Anche a livello internazionale, diciamo, c'è questa aspettativa di conoscere il processo. Noi, ad esempio, non abbiamo soltanto fatto le degustazioni con l'associazione di pizzaioli portando questi forni nelle fiere, ma abbiamo fatto in modo che il Lazio con la pizza romana avesse abbia fatto conferenze dove sono state proprio bene, insomma, avete fatto vedere come veramente viene preparata, e questo è un fatto importante. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di pizza. Sentiamo Anita dalla provincia di Latina. Buongiorno Anita. Sì, salve, buongiorno. Fermo restando che sono una cultrice e che a casa quando posso... Può spegnere la radio perché c'è un rimbombo. Aspetta, c'è un ritorno, ma la radio è assolutamente spenta. Vabbè, allora andiamo avanti. Forse sarà il telefonino. Sì, certo. Prego, prego. Un fastidioso ritorno. Prego. Al di là del fatto, la faccio anche ogni tanto quando ho tempo, eccetera. Credo che al di là del copywriter, quindi sull'impasto, che mi sembra sia fondamentale, al di là poi di tutti i condimenti che con le varianti, la fantasia, eccetera, eccetera, si possono adottare, mi chiedo una cosa. Girando per le varie città, mi sembra che le pizzerie più o meno siano sempre abbastanza piene, cioè lavorino tutte. Allora mi domando, ma è proprio vero che il palato dei consumatori è poi così raffinato da cogliere la vera bontà e originalità e soprattutto commestibilità a volte della pizza? Perché mi sembra che ci siano in certi casi dei locali che dovrebbero chiudere davvero. Ma io... che spacciano per pizza cose che non so davvero che cosa siano. Io sono completamente d'accordo con lei, è evidente che così come nella ristorazione ci sono molti ristoranti che spacciano dei piatti sicuramente immangiabili o preparati con ingredienti molto ma molto discutibili, purtroppo è così in molti settori e le pizzerie sono tante, è evidente che c'è una percentuale che sicuramente non è affidabile. Bene, ora introduciamo, anche se abbiamo molti ascoltatori, abbiamo Giorgio da Bologna, Dario da Frosinone, Maurizio da Terni, un altro argomento, ma arrivo anche da voi cari radioascoltatori. Introduciamo l'altro argomento, il secondo step che avevamo voluto affrontare a seguito di quanto è avvenuto a Lucca. Così sembra che la regione Lombardia, ci sia un consigliere della regione Lombardia che voglia così promuovere lo stesso provvedimento di Lucca, cioè lo stop al kebab nel centro storico. Perché il kebab cosa c'entra con la pizza e magari cosa c'entra con tanti altri piatti, cioè piatti di cibo di strada o piatti di tradizione territoriale, a differenza di altre tipologie che possono essere il fast food. Io ho con noi il consigliere Daniele Bellotti. Buongiorno Bellotti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, anche lei. È vera questo rumors che lei sta preparando appunto questa proposta di far togliere dai centri storici laddove si vende kebab? È vero in parte, nel senso che io ho presentato un progetto di legge già a luglio riguardo alla sull'esempio ovviamente di quanto ha fatto il Comune di Lucca, sulla possibilità che possono avere i comuni di stabilire un elenco di attività commerciali incompatibili con il tessuto storico dei propri borghi antichi. Cosa vuol dire? Che se un bar, un ristorante o un qualsiasi privato volesse il privato sistemare la facciata della propria casa, deve avere l'autorizzazione da parte del comune, perché non la può fare certo viola, pois bianchi, ma deve rispettare determinate caratteristiche. Il bar e il ristorante, se vuole mettere una tenda da sole o dei tavolini, deve farlo in conformità con quanto gli viene stabilito dal comune, per avere un certo rispetto del luogo. Il paradosso è invece che se uno vuole aprire un'attività che assolutamente non è in sintonia con il contesto storico, quindi ripetiamo, stiamo parlando dei centri storici, degli angoli più belli delle nostre città, lo può fare. E così il rischio noi vogliamo evitare, innanzitutto che si possa, non so, creare, aprire, ad esempio non è solo la questione dei kebab, perché noi abbiamo fatto riferimento tra gli esempi anche ai fast food, oppure ai ristoranti cinesi, oppure anche ai sexy shop. Cioè, se dovesse aprire un sexy shop a fianco alla chiesa della bellissima piazza del paese, questa piazza storica ne guadagna o ne perde in fascino? Belotti, è ovvio che, essendo il kebab l'attività più diffusa in questi ultimi tempi, da questo punto di vista è stato così, dal punto di vista giornalistico, evidenziato come una legge anti-kebab. Senta, e la pizza taglio è messa sullo stesso livello, ovviamente, se non rispetta il decoro? Il progetto di legge nostro no, a Lucca sì, ho visto, da noi no. Quindi nel progetto di legge nostro non è previsto questo. Bene, sentiamo, abbiamo qualche radioascoltatore, poi sentiremo anche Vittorio Castellani in proposito. Sentiamo Giorgio da Bologna, buongiorno, che è un giornalista di Enoga che spesso interviene. Ciao Giorgio. Buongiorno Davide, grazie dell'opportunità, buongiorno a tutti. No, sottolineare solo due concetti veloci. Intanto la pizza è patrimonio sicuramente della nostra gastronomia italiana. Ci sono delle eccellenze e devo dire invece bisognerebbe lavorare anche a livello di ministero per cominciare a fare chiudere buona parte delle pizzerie che non sono pizzerie, che in realtà poi acquistano una materia prima molto dubbia e, io dico in modo anche forse violento fra virgolette, avvelenano il consumatore. Premesso questo, devo dire invece che ci sono delle eccellenze. Prima avevamo l'associazione e proprio a Bologna per la prima volta, se mi consenti, il 9 di febbraio alla pizzeria Tonino, perché dico questo, verrà conferito il riconoscimento Verace Pizza Napoletana. Dico questo perché la pizzeria Tonino, che è un grande ristorante con una cucina aperta dove ci sono queste danze degli chef e quant'altro, ha messo vicino alla grande cucina la pizza, quindi tu puoi degustare la vera pizza napoletana vicino a una grande cucina, quindi la pizza può andare benissimo in parallelo con una grande cucina. Bene Giorgio, ti tolgo la parola perché ho tanti radioascoltatori, scusami ma mi sembra che tu abbia già detto tutto. Sentiamo Maurizio da Terni, buongiorno Maurizio. Maurizio da Terni è caduta la linea. Dario dalla provincia di Frosinone, buongiorno. Sì, buongiorno, eccomi qua. Mi dica. Allora, come dicevo, prima accennavo a chi mi ha ricontattato di Radio 24, sono un operatore del campo della pizza, nel senso che lavoro nel campo della pizza in modo, diciamo, abbastanza intensivo. Sono tanti anni che andiamo in giro dal Giappone, dagli Stati Uniti, un po' tutta l'Europa, l'Indonesia, portando l'eccellenza della pizza. Però vorrei fare un paio di precisazioni che penso siano assolutamente dovute a ciò che si è detto sulla pizza, cioè nel senso la differenza tra pizza napoletana, la pizza romana, se esiste una pizza romana tonda, eccetera. Effettivamente sotto c'è la differenza è veramente tanta, perché sotto c'è veramente un qualcosa di differente, nel senso la pizza napoletana è un... Ma mi scusi Dario, ma l'ha già fatta molto bene Bonci questa differenziazione, visto no, che Bonci... No, effettivamente chimica ed è molto differente, nel senso la pizza napoletana ha un impasto molto breve, mentre quella romana è croccante, solitamente almeno di uno, due, tre, ma anche una settimana di tempo di lievitazione, e ciò va veramente a cambiare completamente la pizza, non solo dal punto di vista del gusto, ma anche delle proprietà nutrizionali, perché diventa molto più digeribile e chiaramente anche più profumata, perché è la caratteristica del prodotto più lievitato. Sì, ma ci sono anche pizze napoletane che fanno lievitazione di 36 ore, quindi non è detto che solamente quella romana faccia lievitazione così lunghe. Ci sono anche molti pizzaioli che fanno pizze napoletane, quindi mi sembra che, cioè, questo sia un discorso un po' così che assolutamente non c'entra assolutamente niente. Insomma, mi sembra che dall'una o dall'altra parte ci sia chi fa lunghe lievitazioni o lievitazioni più corte. Mi scusi se interrompo solamente su questo. C'è il capitolato tecnico della pizza verace napoletana che deve essere assolutamente seguita per avere una pizza napoletana tradizionale, che detta tempi e modi, se vuole può anche... Sì, lo conosco benissimo quel regolamento, si parte da 6 ore sopra. 6 ore in sopra? Sì, quindi è noto questo. No, però non si va mai con il tipo di lievitazione che loro fanno, lo fanno sempre corta, cioè da 6 ore a 10 ore, ma non di più. C'è gente che le posso assicurare che la fa molto più lunga, quindi... Sicuramente, se vuole, poi in privato gli do 3-4 indirizzi. Bene, grazie a Dario dalla provincia di Frosinone. Ora volevo sentire Vittorio Castellani. Cumalè, a seguito dell'intervento di Daniele Bellotti, di questo probabile provvedimento della Regione Lombardia. Sì, Davide, solo un pezzo, perché purtroppo mi sono collegato telefonicamente molto in ritardo. Beh, innanzitutto ieri stesso è partito un comunicato a firma di alcuni, di 15 tra i più importanti giornalisti del settore gastronomico in Italia, spero che si aggiunga presto anche la tua, per smontare, per dire che insomma questa cosa è veramente un provvedimento. Guarda, uscirà domani sul Sole 24 Ore un mio articolo in proposito. Quindi vi invito a leggerlo, sì. Questi provvedimenti mettono ogni volta l'Italia, come molti ci sono, diamo molti spunti all'estero per far ridere di noi. Non esiste al mondo provvedimento che abbia vietato alla pizza di essere presente nei centri storici, né nelle grandi metropoli, né nei centri commerciali delle più grandi città del mondo, per cui ancora una volta riusciamo a far ridere malamente. Il nostro paese ha bisogno di ben altro che di queste uscite che non giovano nessuno. Si occupino gli amministratori piuttosto di fare della formazione, di fare delle raccolte differenziate, di smetterla di criminalizzare soprattutto i ristoratori etnici, come si è visto in tutti questi mesi. Non è mancato uno spunto quando là dietro all'economia, all'imprenditoria straniera c'è un che è molto in espansione, in sviluppo, c'è un indotto che permette a molte aziende italiane di lavorare, quindi questo è uno dei modi che gli stranieri hanno per integrarsi. Ci sono fior di ricerche che dimostrano che la ristorazione è sicuramente uno dei settori più importanti. Sicuramente ci sono dei problemi che a mio avviso però non si risolvono con il proibizionismo, con provvedimenti repressivi e discriminatori, ma con formazione e accompagnamento. Non è pensabile ipotizzare che un cinese che parte da una realtà completamente diversa dalla nostra, distante anni luce da normative come l'HACCP, la 626, e che magicamente, prendendo un aereo e volando 10.000 km in Europa, automaticamente diventi e recepisca perfettamente la nostra normativa che peraltro non gli viene spiegata, perché non esistono lavori fatti in lingua. C'è tutto un lavoro di traduzione non solo linguistica ma anche concettuale. Il gastronauta. Eccoci di nuovo alla pizza, la pizza dei centri storici. Stefano dalla provincia di Roma. Buongiorno Stefano, veloce perché ho poco tempo. Buongiorno, devo dire che tutto l'intervento è stato assorbito da quello che ha appena detto il dottor Vittorio. Sono d'accordo, palato, gastronomia, cultura e difesa del centro storico non sono necessariamente collegati fra di loro. Grazie comunque. Grazie a lei per la sinteticità. Armida da Roma, buongiorno Armida. Buongiorno. Volevo discutere a proposito di questo divieto di Lucca. Mantenere i fast food, sì, specialmente legati alle gastronomie, sì, estere. Sono assolutamente, intanto, in completo disaccordo con qualsiasi tipo di divieto. Bene. Specialmente se coinvolge il gusto. Secondo voi lo vedo un provvedimento di una certa provincialità, se mi si permette. Bene. È bello ampliare i propri orizzonti, anche perché è molto spesso intorno a un tavolo di gastronomia che si ampliano le conoscenze e ci si conosce e ci si frequenta e ci si capisce. Grazie. Grazie, la ringrazio del suo intervento. Ora abbiamo con noi l'assessore al turismo della Regione Campania, Claudio Velardi, che è già un noto comunicatore, quindi con lui. Buongiorno Velardi. Buongiorno a voi. Buongiorno. Velardi, volevo chiederle, ma abbiamo discusso della pizza come piatto che rappresenta l'italianità nel mondo, addirittura Oliviero Toscani sostiene che bisognerebbe mettere la pizza nella bandiera italiana. Io volevo chiederle, la pizza è un bene sicuramente da proteggere e lei non ritiene come regione di fare dei passi in avanti per proteggere questo nostro bene culturale? Beh, ma guardi, ma ci sono già molteplici iniziative ad opera dei ristoratori, dei pizzaioli, a proposito, diciamo, della creazione del marchio di origine. Naturalmente bisogna però sapere che la pizza è diventata un piatto, diciamo, talmente universale che se ne può preservare la denominazione d'origine controllata, nel senso che, come tutti sanno, mi permetto di dire, la pizza napoletana è ben altra cosa rispetto alle pizze che si mangiano nel resto del mondo, ma naturalmente non si possono neppure mettere le brache al mondo e impedire che la pizza la facciano anche i ristoratori o pizzaioli coreani oppure sudamericani, insomma. Diciamo che in giro per l'Italia stanno balenando dei provvedimenti per bloccare nei centri storici l'apertura negozi che danno fast food oppure anche cibo di strada, e quindi sicuramente anche la pizza. Lei cosa ne pensa? Oh, io in generale sono contrario ai divieti, io sono per la libertà. Poi naturalmente le demarcazioni e il successo di un'iniziativa oppure di un'altra la stabilisce il mercato, e dopo un po' la gente si stancherà, come si stanca di mangiare junk food va in cerca di qualcosa di meglio, e allora un'iniziativa nasce e poi magari muore se non è di segno positivo dal punto di vista qualitativo, non so se è chiaro. Certo, quindi chiaro. Non sono favorevole ai divieti, naturalmente sono favorevole alla qualità, ma la qualità bisogna farla promuovendo sul mercato dei prodotti che abbiano queste caratteristiche. Bene, rimanga ancora con noi, sentiamo un consigliere appunto della Regione Lombardia che è ideatore di questo provvedimento appunto sul decoro urbano, abbiamo capito, più che colpire sicuramente i cibi che vengono propinati. A che punto è, Bellotti, questo provvedimento? Va discusso insieme ad un altro provvedimento di legge che questo va a toccare proprio ancora i kebab, visto che i kebab possono usufruire, essendo laboratori artigianali, di un'estensione in termini di orari di apertura al pubblico di 24 ore su 24, e la cosa sta creando gravissimi problemi di quiete e ordine pubblico in tantissimi centri da parte dei residenti, nei confronti dei residenti, scusate. Quindi io però a chi dice sono contrario ai divieti, attenzione, qui stiamo parlando di tutelare il patrimonio storico. Se non ci fossero i divieti, uno si sistema la propria abitazione di valore storico come crede, magari alzandola di 4 o 5 piani, stravolgendola completamente. Se non ci sono i divieti, mi spiegate come si può tutelare il patrimonio storico, urbanistico, architettonico e anche commerciale e sociale che ci hanno tramandato dal passato e che noi abbiamo il dovere come amministratori di trasmettere al futuro, alle generazioni future. Cioè, è troppo facile fare i radical chic, apriamo, facciamo, questi divieti sono un esempio negativo. Ci hanno trasmesso un patrimonio unico al mondo e noi abbiamo il dovere assoluto di tutelarlo. Se permettiamo che nelle piazze più belle delle nostre città, al posto delle pizzerie, al posto dei ristoranti tipici, al posto degli artigiani, aprano phon center, ristoranti cinesi, kebab, sexy shop o altre attività, ditemi se è una cosa che si può fare e se in futuro le generazioni future saranno contenti di trovarsi un patrimonio storico completamente rovinato. Bene, sentiamo Henrietta da Bergamo, una radioascoltatrice. Buongiorno Henrietta. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Allora, anch'io sono in linea di massima favorevole al liberismo, quindi lasciare che le persone vendano nel mercato e poi siano selezionate da esso. Però il mio problema è questo. Ad esempio, in Borgo Palazzo, che è un centro storico, facciata appena fatta, pizzeria da sport con un'insegna vergognosa messa in facciata, all'interno un cortile appena restaurato accanto a un affresco del 1300 tutta la sporcizia che questa pizzeria lascia in questo cortile appena restaurato. Allora, mi domando se queste norme restrittive siano in funzione della necessità di mettere in condizione coloro che aprono le attività di rispettare le regole, le strutture architettoniche. Bene, insomma, il decoro, quello che viene chiamato il decoro cittadino. Grazie Henrietta, devo interrompere perché c'ho pochissimo tempo e ho ancora parecchie persone. Volevo sentire Paolo da Lucca. Buongiorno Paolo. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. E vengo subito al sodo. Praticamente qui a Lucca è successo questo: ci sono già 3 kebab nel centro storico e ci sono pizzerie che hanno anche 50 anni di storia, pizzeria a taglio, mi riferisco in principal modo per le pizzerie a taglio. Quello che è successo è che praticamente è una questione soltanto di decoro e non si limita soltanto all'apertura e alla chiusura di nuovi kebab o nuove pizzerie a taglio, ma a tutta quella serie di negozi che sono incompatibili con il centro storico. Ricordo a tutti che Lucca fu sede del primo triumvirato, quindi ha origine, diciamo, antichissime, e per chi non conosce Lucca e in particolar modo il centro storico, inviterei appunto tutti quelli che si dicono favorevoli a questo tipo di genere di negozi a venire a visitare Lucca per vedere e rendersi conto di persona di quello che è il centro storico della città e quello che può essere il centro storico di tutte Grazie. Le altre città italiane. Grazie Paolo. Velardi, ha sentito un po' cosa succede un po' in giro per l'Italia? Questioni differenti, perché un conto è avere piani commerciali e regolamenti amministrativi che tutelino il bello delle nostre città, e questo è un discorso da fare nei confronti di tutti, non nei confronti del kebab, perché se ci sono delle insegne di negozi o di ristoranti italiani, diciamo, che non hanno nulla da invidiare in quanto a mancanza di decoro, diciamo, ad altri esercizi commerciali. Certo. Quindi intanto è un discorso generale ed è un discorso che riguarda piani commerciali e regolamenti amministrativi. Diciamo, questo è evidente che ci deve essere, però tutto questo senza lanciare queste campagne, queste sacre campagne, diciamo, contro i cibi etnici, perché questo sinceramente mi sembra sbagliato. È una ritorsione, anche una negazione della modernità, della globalizzazione, di un mondo che tende sempre di più a integrarsi, giustamente e comprensibilmente. Insomma. Grazie Velardi, grazie a Belotti. Sentiamo Nunzio da Napoli. Buongiorno Nunzio. Buongiorno. 2 osservazioni veloci. La prima proprio per Velardi. Anche all'estero hanno imparato a fare la pizza, sempre meglio, esperienze personali. E io che vengo da Napoli posso dire che è un'ottima pizza. Quindi a Napoli, oltre ai regolamenti per tecnici, DOC e DOCGG, sarebbe opportuno che anche le pizzerie stesse facessero un po' di autocritica. Bene. E poi l'altra cosa per Belotti, decoro urbano. Parigi, Barcellona sono pieni di negozi, ristoranti, kebab, ma il decoro va avanti da secoli. Grazie. Io volevo solo dire a Vittorio Castellani che io sono concordo con tutto, con lui meno sull'igiene. Mi spiace Vittorio, ma anche chi arriva dall'estero deve rispettare l'HACCP e le regole che sono in questo paese. Che poi ci sia un problema di traduzione, io posso essere d'accordo con te, però l'igiene è la prima cosa fondamentale da rispettare. Pronto? Ci dico solo che le istituzioni devono tener conto, come in molti altri campi, per tutto ciò che riguarda l'accompagnamento alla cittadinanza, a percorsi di formazione, a persone che arrivano da culture molto distanti dalle nostre, ed è un'illusione pensare che magicamente, solo perché sbarcano in Italia, riescano a recepire. Bisogna aiutarli a comprendere e accompagnarli con percorsi formativi idonei. Ma sull'aiuto sono d'accordo, però sicuramente poi lo devono rispettare. Questo purtroppo non succede solamente con chi arriva dall'estero, ma anche con molti italiani. Cioè, quindi l'igiene io credo che sia la prima cosa di rispetto, al di là del cibo che si propina, al di là della nazione la quale si rappresenta. Cioè l'igiene deve essere essere assolutamente fondamentale. Bene, grazie, abbiamo chiuso, stiamo quasi sforando. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento con questa trasmissione in replica domani alle 10 e alle 12.15 il Wine Bar del Gastronauta e ogni giorno la pillola alle 18.30. Ringrazio Gigi e Peter per il contributo e a presto.